CRM Linea Sport, in linea con lo sport. Un buon pomeriggio a tutti gli amici sportivi, eccoci qua, Santi Genovese vi dà il benvenuto su CRM Happy Radio e su questo appuntamento del lunedì con CRM Linea Sport, un programma che va in onda ogni lunedì dalle 17 in poi e poi naturalmente il sabato con l'anteprima di CRM Linea Sport. Eccoci qua oggi dunque per parlare di quelli che sono stati un po' i risultati, gli avvenimenti di questo ultimo weekend praticamente sportivo, un weekend devo dire molto negativo perché per quanto riguarda le squadre che ci riguardano da vicino e soprattutto le squadre di cui parliamo durante le nostre trasmissioni, purtroppo c'è stata una giornata veramente disastrosa, una serie di sconfitte non preventivate ma che così hanno condizionato un po' l'andamento delle nostre squadre praticamente nei vari campionati. Come sempre parleremo di calcio, parleremo di calcio a 5, parleremo di basket e andiamo a valutare, visionare, vedere i risultati che si sono maturati in questa giornata e naturalmente andiamo a vedere subito e partire, iniziare con il campionato di promozione girone A, dove è impegnata la nostra squadra cefaludese della Cefalù Calcio, che purtroppo questa volta non ha portato fortuna all'amico Peppe Minutella la telefonata del sabato, perché chiaramente avevamo parlato con lui proprio sabato di questa partita che doveva essere un po' il rilancio dopo la sconfitta subita in casa sabato scorso con il Ligni Trapani. Era una partita abbordabile perché praticamente si giocava con una delle squadre che sono in fondo alla classifica, una squadra che fino all'ultima, alla giornata scorsa, aveva appena 8 punti in classifica, mentre invece si è dimostrata e si è poi alla fine verificato quello che noi non ci aspettavamo, ma cioè una sconfitta e una sconfitta sonora. Oggi non abbiamo qui nessuno della Cefalù Calcio per poter parlare, per poter commentare così come è maturata questa sconfitta a Carini, ma comunque il risultato è già tutto un diciamo un programma, perché si è persi per 3-1 la squadra cefaludese negli ultimi turni ha subito parecchi gol, anche se ne abbiamo parlato con lo stesso Peppe Minutella, nell'ultima gara ha subito due calci di rigore, uno dei quali, il secondo, è scaturito dopo che praticamente si era l'azione era iniziata con un fuorigioco di un giocatore della squadra avversaria, ma in questo caso proprio praticamente è una sconfitta che lascia un po' l'amaro in bocca a tutti noi, anche perché poi ieri visto il pareggio fra il Monreale e il Paceco, diciamo di tutte le squadre di testa quella che ne ha approfittato di più è stato proprio il Dattilo, che ha vinto tranquillamente per 3-0 in casa e che praticamente adesso guida questa classifica con 27 punti. Potrebbe essere la partita che ci teneva ancora agganciato al gruppo di testa, adesso invece i punti di distacco dalla capolista Dattilo sono 6, mentre 5 punti dal Paceco, praticamente sono 5 punti dal Paceco e 6 punti dal Dattilo. E tra l'altro dobbiamo dire che il Dattilo lo incontreremo fuori casa, dunque un'altra situazione particolare che poi andremo a vedere e a parlarne proprio con Peppe nei prossimi appuntamenti. Certo, non è niente perduto, anche perché ancora siamo praticamente a metà, nemmeno a metà campionato, siamo alla 13ª giornata di andata, però bisogna un po' correre ai ripari perché due sconfitte di seguito fanno male e soprattutto al Morale morale e alla classifica. Ma andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati maturati ieri in questo girone A di promozione. Cus Palermo Fulgatore 2-2, Monreale Pacheco 1-1, così come abbiamo detto, Carini Cefalù 3-1, Dattilo Strasatti 3-0, Favignana Delfini 0-0, Ligni Trapani che continua a vincere 2-0 sul Monte Maggiore, poi il Real Calcio Salemi, vittoria del Salemi per 3-1 contro il Real Calcio, ha riposato il Castellammare. Andiamo un po' a valutare quella che è la classifica dopo questa 13ª giornata, che vede appunto in testa il Dattilo con 27 punti, seguito dal Pacheco con 26. Scendiamo giù a 23 punti troviamo il Salemi, mentre Ligni Trapani e Monreale sono ferme a 22, anzi il Monreale va a 22 con il pareggio di ieri, mentre Ligni Trapani comincia a scalare questa classifica, queste due vittorie consecutive, quella di Cefalù e quella di ieri, hanno portato questa squadra di Trapani nelle prime posizioni in classifica, dunque al quarto posto insieme al Monreale con 22 punti. Ecco che troviamo in quinta posizione proprio il Cefalù, che di punti ce n'ha 21. Poi scendiamo giù la classifica per arrivare fino all'ultima squadra in questa classifica. Praticamente abbiamo Castellammare 18 punti, Monte Maggiore 17, Real Calcio 15, Cus Palermo 13, Fulgatore 12, Carini 11, Favignana 9 insieme al Delfini e poi infine Strasatti 3 punti, ultimo e fanalino di coda di questa classifica. Peccato perché la squadra cefaludese si era presentata con tutti i requisiti per fare un campionato di testa. Dicevo prima, per carità, nulla è perso, anche perché siamo ancora nemmeno a metà del campionato, però bisogna che l'allenatore mister Peppe Minutella e Salvo Scimino, il presidente, diano una scossa a questa squadra e soprattutto diano una scossa morale per risalire la china e già cominciare a vincere dalla prossima partita interna e di conseguenza riportarsi su in classifica. Giornata disastrosa anche per le formazioni castelbonesi, di cui noi parliamo in tutte le nostre trasmissioni. Sconfitta in casa la Castelbuono 1975 dalla capolista Sant'Angiolese, capolista che praticamente da questa settimana, visto che ha approfittato della sconfitta della Castelbonese per praticamente andare in testa alla classifica. Noi adesso, prima di continuare con questa con questo campionato, ci facciamo come al solito una canzone e poi ritorniamo nuovamente in diretta qui su CRM. Scendi silenzio, fai ciò che vuoi, crolla la casa che scegliemmo per noi, fu la reazione, un'utopia. Funore dei ricci andato via, non è per ciò che si è rotto, se ora prego per noi. Nel bilancio di tutto, io tutto lo rifarei, e fu artificio miracolo. Scintilla, forse di più, forse era niente, sembrava tutto. Eri una luce così gigante che anche lontano mi sembravi grande. Temevo che un giorno il tempo ti avrebbe portato via. Come poesia una leggenda, mi scordo di te. E fu artificio miracolo, un fuoco e tu mi amasti e ti amai anch'io. E fu distrazione di un angelo, solo se quel fuoco si spense. E sarò ancora un po' più forte quando lo rivedrò. L'amore è un viaggiatore senza meta e saprò che un fuoco d'artificio non lo tocca mai il cielo. Quindi tornerò ad amare davvero. E fu artificio miracolo, un fuoco e tu mi amasti e ti amai anch'io. E fu distrazione di un angelo, solo se quel fuoco si spense, poi ti persi lì, poi ti persi lì, stavi lì. E sarò ancora un po' più forte quando lo rivedrò. Allora, eccoci tornati nuovamente in diretta su CRM Happy Radio, sempre per questo appuntamento sportivo con in studio Santi Genovese, come ogni lunedì. E adesso andiamo, dicevo poco fa, andiamo a parlare di questo campionato, del campionato di promozione, girone B. Ripeto, una giornata disastrosa per i colori castelbonesi, in quanto sconfitto il Castelbuono in casa per 3-1 dalla Sant'Angiolese, che aggancia la Castelbonese in vetta alla classifica, mentre la Castelbonese va ad impattare in una sconfitta contro la Mamertina. Anche questa è una sconfitta forse nemmeno così non preventivata, vista la forza della Castelbonese, però praticamente anche la Castelbonese è incappata in una giornata storta. Mamertina, che praticamente in classifica ha 16 punti e che praticamente non era proprio quella squadra che poteva mettere in difficoltà la Castelbonese, invece è successo. Il calcio è bello anche per questo, e poi giustamente arrivano anche a volte dei risultati che non sono né preventivati e nemmeno accettati da chi poi segue le varie formazioni. Allora, andiamo a vedere un attimino i risultati di questa giornata del campionato di promozione girone B, poi andiamo a valutare un po' quella che è la classifica. I risultati sono questi: Sinagra Fiume Freddese 0-0, Taormina Torre Grotta 2-1, Riviera Messina Ciappazzi è stata rinviata, poi Castelbuono 1975 sconfitto in casa per 3-1 dalla Sant'Angiolese, il Milazzo batte il Villafranca per 4-0, la Mamertina come detto batte la Castelbonese per 2-1 e Randazzo Ghibellina 4-0, ha riposato la Pisturina. Adesso continuiamo ancora con gli altri, con la classifica praticamente del campionato di promozione del girone B. In testa abbiamo detto che praticamente c'è la Sant'Angiolese insieme alla Castelbonese e alla Taormina, che di punti ne hanno 20-26. Poi troviamo praticamente il Milazzo a 24, Pisturina 18 insieme alla Fiume Freddese e insieme anche al Sinagra. Seguono con 17 punti il Ciappazzi, il Randazzo a 16 punti insieme alla Mamertina, poi ancora Castelbuono 11 insieme a Torre Grotta, Villafranca e Ghibellina 6, infine Riviera Messina 4 punti. Dunque Castelbuono Castelbuonese che deve rimboccarsi le maniche dopo questa sconfitta esterna e praticamente ritornare a vincere possibilmente per cercare non soltanto di consolidare il proprio primo posto di classifica, ma cercare di staccare anche le altre formazioni che seguono, perché praticamente non solo non farsi agganciare in classifica, ma soprattutto non farsi scavalcare. Bene, Castelbuono che continuerà la sua avventura tranquillamente. È stato un incidente di percorso, perché abbiamo visto che la Castelbuonese è un'ottima squadra. Fra l'altro il Peppe Minutella ci diceva che praticamente questa è una squadra che dovrebbe vincere il campionato, perché lui ha visto la Castelbuonese e ha visto che è una squadra quadrata e ottima. Bene, adesso noi facciamo una pausa pubblicitaria, poi ritorniamo nuovamente in studio con gli altri campionati, prima categoria, seconda categoria, terza categoria, e saremo insieme ancora per continuare questo appuntamento di oggi. E allora eccoci nuovamente tornati in diretta dopo aver ascoltato i consigli della nostra regia per quanto riguarda le attività commerciali. Adesso noi andiamo a valutare quello che è il campionato di prima categoria e il girone C. E questo girone C dove ha visto ieri nell'undicesima giornata la sconfitta della squadra del Campofelice in quel di Capodorlando per 4-2. E anche qui praticamente il Campofelice perde la testa della classifica, praticamente scavalcata dalla Futura, che ha battuto il finale per 2-0. Ma andiamo a vedere un po' i risultati di questo girone C della prima categoria e dopo andremo praticamente a vedere nuovamente la classifica. Allora, Futura finale 2-0, Stefanese Sfarandina 5-0, Capodorlando Campofelice 4-2, Mistretta Brolo è stata rinviata, Sant'Agata Acqua Dolcese 0-1, vittoria dell'Acqua Dolcese in trasferta, Collesano San Basilio 0-0, Luigi Longi Cerda è stata sospesa. Andiamo a vedere questa classifica che è cambiata chiaramente, visto la vittoria del Futura e la sconfitta del Campofelice. Il Futura passa in testa alla classifica con 22 punti, e viene scavalcata anche dalla Stefanese il Campofelice, che di punti adesso ne ha 21 con la vittoria di ieri, mentre il Campofelice rimane a 20 punti, agganciato proprio da quel Capodorlando che ha battuto per 4-2. Insieme a queste due squadre a 20 punti c'è anche il Mistretta, seguono al 17 finale Sant'Agata 16, Acqua Dolcese 15, Cerda 13 punti, San Basilio 11, Brolo e Sfarandina 9, Longi 7, Collesano il fanalino di coda con 6 punti, Collesano che ieri non è riuscito a vincere in casa, ha pareggiato per 0-0. Andiamo a vedere adesso uno sguardo a quella che è la seconda categoria e che è il girone B, dove impegnata c'è la simpatica compagine dell'Ascari di cui abbiamo parlato con Peppe Barranco qui proprio nei nostri studi di questa squadra dell'Ascari. Purtroppo anche per il Lascari sconfitta, dicevo, sembra che si siano messe tutte d'accordo ieri per perdere tutte le partite delle squadre che ci riguardano un po' da vicino. Sconfitta dall'Aspro Nuova per 2-1 e appunto il Lascari. Andiamo a vedere anche gli altri risultati che si sono maturati: Nova Sanchez Villa Grazia 2-1, Oratorio Trappeto 3-0, Real Casale Provilla Abate 2-3, vittoria del Provilla Abate in esterna, vittoria invece interna della Virtus Termini per 2-1 con il Pallavicino. Ha riposato la Mondelliana. In classifica abbiamo in testa in questo girone la Nuova Sanchez con 19 punti, poi seguono Provilla Abate 14, Oratorio 13, Aspra Nuova 11, Lascari 7, Virtus Termini 7, Villa Grazia e Pallavicino 6, Mondelliana, Atletico Trappeto 4, Real Casale soltanto 3 punti. E passiamo ancora con il calcio al campionato di terza categoria. Abbiamo parlato di questa simpatica squadra del Sant'Ambrogio, della Prologo Sant'Ambrogio. Prologo Sant'Ambrogio che è stata l'unica di quelle squadre che noi così ne parliamo così dettagliatamente, immediatamente che ha vinto, ma lo vedremo questo quando praticamente ritorneremo nuovamente in studio e intanto ascoltiamo una bella canzone. Mi gente bonita a bailar esta canción, Master sube el volumen que esto ya comenzó. Te invito a una rumba buena como se merece. Te presento el baile que trae Kenny William llamado el cheque. Esta noche la voy a coger bien larga bailando el cheque cheque. Esta fiesta no para. Ra. Esta noche la voy a coger bien larga bailando el cheque cheque. Esta fiesta no para. Just hold on, we're going home. and you know it. You act so different around me. Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. Oh, just hold on, I'm going home. Just hold on, I'm going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, I'm going home. E allora ci sono, non sono andato via, non sono scappato, sono qua e siamo sempre insieme CRM Happy Radio per continuare questo nostro appuntamento con lo sport di oggi e lo continuiamo questo appuntamento con dove lo abbiamo lasciato, lo riprendiamo immediatamente, cioè con il campionato di terza categoria, questo campionato di terza categoria dove è impegnata la squadra della Prologo Sant'Ambrogio, una delle squadre, diciamo una delle pochissime che ci ha dato qualche soddisfazione in questo weekend sportivo, in quanto ha vinto in casa per 1-0 contro il Buon Pietro. Andiamo a vedere anche gli altri risultati: Alimena Petralia 2-0, Proalia Cartagine 1-2, vittoria del Cartagine in esterna, come dicevamo Prologo Sant'Ambrogio Buon Pietro 1-0, mentre vince il Città di Polizzi a San Mauro per 1-0, Super Giovane Alia 3-2. La classifica di questo girone di terza categoria: al comando la Super Giovane con 14 punti, segue il Prologo Sant'Ambrogio con 13, Cartagine e Alia 8 insieme a Città di Polizia e Alimena, Proalia e Buon Pietro 6, Petralia Sottana 5, San Mauro 2 punti. Bene, questa è la classifica. E allora continuiamo e auguriamo un in bocca al lupo alla Prologo Sant'Ambrogio, questa squadra simpaticissima, che continui questa bellissima marcia nel campionato. Fra l'altro abbiamo sentito qualche trasmissione fa anche Pino Davola, vicepresidente di questa società, il quale diciamo loro puntano moltissimo a quello salto di categoria per andare in seconda appunto categoria, e noi glielo auguriamo veramente di cuore. Adesso invece lasciamo il calcio per un attimo e andiamo a parlare di calcio a 5. Anche qua una giornata veramente negativa, in quanto sia il calcio a 5 femminile sia il calcio a 5 maschile vengono da questo weekend con due sconfitte, la Real Calcio, una sconfitta maturata in quella di Argirium per 5-4, mentre la Atletico Cefalù perde in casa per 4-3 contro la Iron Team Palermo. Devo dire che il Real Calcio con questa sconfitta, il Real Cefalù praticamente viene scavalcata dalla stessa Argirium, che in classifica si porta a 26 punti, mentre il Real Cefalù con questa sconfitta si allontana ancora di più dalla testa della classifica, in quanto in testa abbiamo i calatini che di punti ne hanno 30. Andiamo a vedere un po' i risultati che si sono maturati in questa giornata, l'undicesima, che si è giocata il 30 novembre, e vediamo subito le altre squadre come si sono comportate. Abbiamo detto la sconfitta del Real Cefalù per 5-4 in casa dell'Argirium, poi le altre partite: 8-2 la vittoria del Real Park Parco 5 contro il Campobello, 7-1 invece vince il Caricatì contro il San Cataldo, un pareggio a 4-4 fra Club 83 e Palagonia, mentre vittoria in casa, anche se di misura, dei calatini, che consolidano il loro primo posto in classifica, 5-4 il risultato finale, e poi un 6-2 a favore della Real Leonforte contro il Macchitella. Andiamo adesso a vedere, l'abbiamo già accennata, ma andiamo a vedere la classifica di questo campionato di calcio a 5 Serie C2 Girone B. In testa appunto i calatini con 30 punti, segue Argirium 26, Real Cefalù 25, Atletico Canicattì e Real Parco 24, Vigor 17, Campobello 16, Soccer 15, Palagonia 13, Real Leonforte 10, poi a 7 punti un trio di squadre, Club 83, San Cataldo e Scordia, e infine Macchitella con 3 punti. Dunque auguriamo auguriamo già anche alla nostra simpatica Real Cefalù di vincere la prossima partita interna e di ritornare alla vittoria e di ritornare a quella marcia di cui ci aveva abituato questa squadra di vittorie, praticamente questa serie di vittorie che ha sempre ha fatto e ha avuto la Real Cefalù. Allora, andiamo adesso con il calcio a 5 femminile. Dicevamo la sconfitta in casa dell'Atletico Cefalù contro l'Iron Team Palermo per 4-3. Andiamo un po' a vedere gli altri risultati. Diana Calcio Comiso, Ganzirri 3-5, vittoria del Ganzirri in esterna. Poi abbiamo un pareggio fra Futsal e Zafferana. La vittoria della Futsal sulla Zafferana per 4-2, sconfitto invece il Partinico per 7-2 dall'Atena. Team Scaletta Pronissa vince la Pronissa per 6-5, vittoria per 3-0 del Siracusa sull'Atletico Ragusa e vittoria dell'Atletico Trappeto in trasferta Atletico Ragusa, Tiger Siracusa 3-0 la vittoria del Siracusa sul Ragusa. Bene, in classifica l'Iron Team Palermo a 27 punti insieme alla Futsal Atene e praticamente poi dietro abbiamo tutte le altre squadre al quarto posto la Zafferana con 20 punti, Parrocchia Ganzirri 18, Atletico Cefalù 14, Trappeto 13, Partinico 12, Ragusa 11 insieme alla Tiger Siracusa e infine seguono tutte le altre squadre Pronissa 8, Diana Calcio Comiso 7, Team Scaletta 5 e Atletico Ragusa 2 punti. Bene, e questo per quanto riguarda il calcio a 5. Adesso noi dobbiamo fare un'altra pausa, è quella appunto la pausa che è quella che ci consente di ascoltare i consigli commerciali. Allora noi facciamo quest'altra pausa, poi chiuderemo questo nostro appuntamento di oggi con il basket e con i risultati e la classifica del girone che riguarda proprio la squadra del Cefalù Basket. Allora, ultima parte di questo appuntamento di oggi, CRM Linea Sport, e adesso parliamo di basket. Doveva essere la partita che consacrava la nostra squadra cefaludese nelle prime posizioni di classifica e invece non è andato tutto come doveva andare, in quanto la squadra cefaludese ha perso in casa una partita importante contro il Licata, 59 il punteggio a 64 e chiaramente la nostra squadra rimane a 10 punti. Certo, sono soltanto 4 i punti di stacco dalle prime due, che sono il Mini Basket Milazzo e il Viaggiare Licata, che appunto con la vittoria di ieri a Cefalù si porta in classifica proprio al primo posto contro il Mini Basket Milazzo, meglio dire consolida questo suo primo posto. Il Cefalù viene scavalcato anche dalla Sport Messina, che di punti in classifica ne ha 12, ma la classifica la vedremo fra un attimo. Intanto andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati in questa giornata, che è l'ottava giornata. Amatori Messina Paceco Basket 77-68, Cefalù Basket Viaggiare Licata 59-64, poi il Mini Basket Milazzo Mia Messina 82-51, Nuova Catirno Virtus Trapani 56-55, Peppino Cocuzza Sport Messina 71-66. E allora andiamo a vedere la classifica. Come abbiamo detto, in testa una coppia Mini Basket Milazzo e Vivere Viaggiare Licata con 14 punti, poi segue lo Sport Messina con 12 punti. Sport Messina che ieri ha perso con il Peppino Cocuzza, poteva essere effettivamente una giornata anche favorevole su questo, perché Cefalù Basket se vinceva la sua partita interna avrebbe appunto agganciato 12 punti sia il Licata sia lo Sport Messina, invece rimane a 10 punti. Invece sale il Peppino Cocuzza, che va appunto a 10 punti, aggancia il Cefalù Basket. Poi seguono Amatori Messina 8 punti, Nuova Agatina Tirno e Virtus Trapani 4 punti, Mia Messina e Basket Pacheco in fondo alla classifica con 2 punti. E va bene, e peccato anche per la nostra squadra di basket cefaludese. Noi, come abbiamo detto anche sabato, speriamo di avere prestissimo il presidente nonché amico Totò Marsala qui nei nostri studi per poter parlare di questa stagione che è iniziata così. Abbiamo avuto, così come ha detto lui, ci sono stati dei problemi, sono stati risolti, adesso pian pianino la squadra sicuramente verrà nuovamente su, ma sicuramente, ripeto di nuovo, non ci saranno problemi per quanto riguarda i playoff, però bisogna anche dare una svolta andando a fare il risultato nella prossima gara che vedrà impegnata appunto la squadra cefaludese di basket. Io direi che a questo punto, cosa dirvi, per quanto mi riguarda è proprio tutto. Abbiamo parlato di questa giornata sportiva non proprio positiva per le nostre formazioni. Speriamo che sabato durante CRM Linea Sport Anteprima avremo modo di sentire qualcuno dei nostri amici che ci segue con tanto interesse, che soprattutto i vari dirigenti delle varie società, e che lunedì prossimo possiamo essere qui ancora nuovamente per questa volta andare a commentare dei risultati positivi per le nostre squadre. Bene, da Santi Genovese è tutto, finisce qui questo appuntamento con CRM Linea Sport. Noi ci risentiamo sabato dalle 12 alle 13 sempre con CRM Linea Sport. Intanto io vi lascio con i nostri programmi, con la nostra musica, con non lasciateci mai, restate sempre in nostra compagnia e una buona serata a tutti. Grazie e a risentirci alla prossima.